Cavaliere e ladro, voi vi dividete un carico di 8 unità di energia totali. A entrambi servono 3 unità di forza, per spostare una unità di energia ogni 10 metri. Se il nemico dista 20 metri, quanta forza dovete utilizzare a testa per ogni lancio?